ci faccio mettere, come si chiamano a Natale, quelli che si mettono sui papassini, la crema per quei cosi lì, i coriandoli, come cazzo si chiamano? I diavoletti. Allora, sempre quello più goloso. E poi oggi quando sta venendo forte, è un Natale. Quando sta venendo forte c'è la fila, vedo, tutti altri curiosi di questa cosa. Perché è una cosa che fa ridere. E dopo è questo negozio che manda a Concetta. Via vendo. Dove? Uno è questo magnete di Sabuglia, l'altro non mi ricordo, aspetta. Via Mendola. Via Mendola. E a Concetta mando a vedere se gli piace. Fa carizzare. Ma io l'avevo già visto su internet il continente che lo faceva, l'hanno copiato. Ma vai dai, cosa andrà in vinta? Dimmi tu. Bisogna avere un po' di faccia tosta a dire certe cose, boh, andare da una ragazza di lì così, esplicitamente quello che vuoi. Una cosa è ottenere, una cosa è dirlo così a voce alta. Citywa si chiama. Come si chiama? Citywa. Città numero uno. Citywa si chiama. Si capisce niente tu. Perché tu hai andato sia a comprare? No, ma cosa? Ma siamo quello cavolo è. Ma non me la futti, non so quelli che si. Io non sono di quelli fissati. Le donne ci vanno a prendersi i mangaglio. E ci vuole anche Margherita, cioè lì ci vuole andare. Io non ho bisogno di comprare gelato. Vabbè, ma dico, sei curioso di andare a vedere, sono grossimi. Sono lunghi e grossi. Tanto non gliene frega niente. E soprattutto cremosi. Ma che ricetta già hanno detto, sono cremosi anche. No, non sta parlando, devi parlare tu. Ha detto che sono anche cremosi. Ma non importa, io ce l'ho già. L'ho già provato. Allora, ce l'ha già detto, mi ha detto che ce l'hai già. Allora, io ci vado per la patata, allora. Vediamo un po' come. Amore. Fate da bravi, aiuto, che sono orari che non si possono dire certe cose. Sì, ho questo mangaglio, me l'ho detto, la patata, non è niente di... C'è la patata al forno, la patata fritta, bollita, salata, allora... Non stiamo parlando di ciccio, eh. Gesù, se di colore ce n'è bello. Ha fatto le cose alla bella. E la gente per curiosità andava a mangiare i ciccioli, dice che sono anche buoni, dice. Bravo, bravo, metti usi, aggettivi, non appunti, cicciali. Ma io non assaggio il coso, ma io assaggio l'altro assaggio. E accidenti, a chi si assaggi il naso, già ti fatti. Ti pigliano per ghiri, se lo vedono mangiando. Gianni, metti ordine, non ti trovo a frutti, metti ordine. Ti vedono con l'affare in mano, ti pigliano i baghini. Antonio, portiamo, gatto, a vedere se c'è il coraggio di chiederlo. No, io chiedo una patatina assaggiata. No, visto devi domandare. Però siccome è più grande io mangerei anche quello. Perché io guardo sempre la quantità. Gianni è un buon gustaio. Di quelli dolci, no, di chi si digarri. Nessuno ha detto niente, di chi si dolce a lui. Ma l'ultima volta la golosità, l'ingordigia mi ha fatto male, che se ho giubilato una gaggiuta, ui, sono ancora dolori dalla costola, mi fa tutta male la costola dietro. Sì, e meno male che chi sei andato a bere, vai già. Cazzo, un amico mio è caduto, si è fratturato tre cosciole a bisù mio, poveraccio. In uno spuntone mio ha toccato proprio gli ha... Gesù che... E io ho sbattuto al marmo del bancone, mi Natali, gli ho spostato il marmo, non ti riguardo, gli ho spostato il marmo del bancone. Ma secondo me io, sai cosa ho fatto? Come mi sono girato? Ho pizzicato con un piede la scarpa dall'altra parte e ho inciampato. E infatti, a che cosa è successo a Caggi? schiacciata, ma ti è andata bene pure, perché un amico mio è caduto così lo stesso, come sei caduto tu, solo che è caduto proprio nell'angolo, mica, si è fatto maraviru. E dopo, siccome stavo scherzando, no? Siccome era l'ultimo cannoncino, gli ho detto, me lo dia che quel cornetto lì da, così è l'ultimo, per non lasciarlo solo, me lo mangio adesso, mi ero mandato il cornetto da una mano e dall'altra va via in basso, immaginati. Eri distratto, vedi, dal cornetto. Ma quanto mi piace di Marano. Luca, quei cornetti sono favolosi, sono belli pieni di crema, anche se ne ho un cornetto malo. Già lo so. Già lo so, non ho mangiato. Ma quale cornetti? Quelli di Profollero. Ah, e perché le pesche? Le pesche, ma sono buone, poi a me piacciono un sacco le paste, a me piace molto, molto diplomatico. Poi anche la cassata, la frittata, le frittelle, le pesche, i cannoncini mi piacciono. Poi c'è i bignè, il cioccolato, il latte, quello bianco. Ma sono buone, perché sono buone tutte, no? Buono il diplomatico è quando è bello bagnato, mica. Ma lo sai cosa, diplomatico ti sporca, invece cannoncino di lingua di ve... Già tutto appurato, mi piace anche a me diplomatico, però ti brutta tutto di coso di zucchero a velo. Rubatene, rubai parlare zucchero a velo, già pensa. Io sono presente che ando rubando in Spagna e vedo infuso mi di ricori, cazzo, tanto è buono. Già lo so, ma già le fanno bene le paste, tutte le paste sono buone, anche le ciabatte, mamma mia. Me le mangio fuori della macchina perché sono brutto tutto che si sbriciolano. La roba di sfoglia la facevo io, gatta. Facevo le ciabatte, i cannoncini, i ventagli, no. Tutta la roba è fatta di qui, ragazzi. E la macchina non rivai, gatta, che oggi venga a trovarti. Non c'è posto. E dove mi metto a farle qua? Cazzo, sono riuscito a fare il tiramisù qua e così l'ho imparato anche a mia moglie a farlo. Ed esce veramente bene. Però qua non c'è posto, no? Come ti metti? Poi ci vuole il tavolo adatto, questo è troppo liscio. Tu vabbè che già vi ho imparato a travagliare un disi in acciaio inossidabile in laboratorio. Cosa ti vieni a mari mi a tirare la sfoglia, quando è troppo riso, mamma mia. Perché se ne rientra, tu la allarghi e se ne rientra. Vabbè, ma non puoi neanche battere col rullo perché quelli in acciaio sono più delicati i banchi, capito? Non è come quando c'hai quello di legno, io prima c'avevo quello di legno, un Tauroni grosso era bello qui sul banco, e si tirano quattro rampa. Ho dovuto comprare quattro banchi in acciaio inossidabile, perché quello in legno e neanche in marmo non si potevano più tenere. Me li hanno fatti buttare via. Quattro tutti in acciaio inossidabile ne avevo imparato, addirittura uno c'aveva anche dei piani e i cassetti, c'aveva. Lo so, perché erano fuori norma dopo alla fine, hanno fatto cambiare un po' di roba anche a noi, macelleria, ci hanno fatto mettere tutti i ripiani tipo plastica, non so cosa sia, una plastica dura, anche i ceppi, tutti in plastica, tutto, non puoi più mettere nulla in legno, prima c'era il ceppo in legno, adesso non si può più tenere, non si possono più tenere queste cose, ce l'hanno fatte cambiare tutte queste cose qua, tutta norma di legge, se no ti muore la multa. Avanti Marco. Marco deve essere impegnato, dai, non ha potuto rispondere. A chi tocca il Michelino, che non mi ricordo chi c'è? Andiamo su, anche i colleghi con il male collegio, che erano tutti in sono tutte cazzate per me. Se avessero tenuto un po' più alla pulizia nei locali invece che far cambiare queste cose, avrebbero fatto bene. Vediamo un po', Luca, ci vuoi far parlare con Margherita? Vediamo cosa ci racconta. Margherita, qualcosa? Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi, ciao! Ciao ragazzi, ciao! Vuoi dire qualcosa, boh? Cosa devo possiamo dire? Dove ti piace questo baracchino? Te lo puoi mettere quando vieni a Sassari? Sì, lo voglio anch'io, quando già finisco a Sassari me lo piace. Sì. E la ti costa, un bel ti costa. Paghi tu, non lo regali tu. Insomma, dove ci occupate bene i fratelli? Sì. Pago io, va bene. Ci devo pagare, bu. E iara. Ehi. Perché adesso mando la foto? Eh? La foto? Sì. Ma di che cosa? Dei cannoncini? Dei gelati. Ce l'ho già il gelato io, non ho bisogno di vedere la foto. Se mi guardo il mio mi batte la faccia. Ehi. Io qui è forte. Beh. Fate la brava. Margherita, cosa ci racconti di bello? Cosa ci racconti di bello? Sono annoiata. Ha fame. Voglio fumare. Non essere scurrile. Scurrile. No, non ho male, sono a posto per il resto. Niente, smette di fumare che la scelta fa male. Poi c'ha fame. Poi cosa c'è? Sonno. Sonno. Sono dormito già poco fa. E mamma invece è dormita, addormentata. Siete lisci, dice Dio. Erano lisci? No. E vuoi esce? In domo? In salone. Ah, in domo, non ho capito. Purtroppo sì. Ma è sacro vai, da. Beh, sono di Sassa, non vai per la Sassa. Non ho capito. Ti mando una foto, mi dici che colore ti piace. Io sono sicuro che ti piace quello rosa. Pensa che ti piacciono le donne. Io quello bianco. A Gianni piace quello rosa, aspetta, adesso glielo mando. Che cazzo sono a te lo stanno mandando? Allora, condividi. Gianni, te lo sto mandando. Non gelati, raga. Secondo me ti piace quello rosa, Gianni, sono sicuro, va. Scommetti. A me hai detto quello nero, no? No, sbagliato. Già, sei sincero, quale colore ti piace? Sincero, dai. Nessuno dei tre. Io sono all'altra sponda. Tutti così, vedi, voi siete golosi. Ah, tu sei... Ma sei a Grecia, dove sei complesso di radio, tu. Devi abbassare un po'. Troppo forte, ma è complesso la radio. Ma fa passaggio. Vero già, ma è complesso, lo sento io. È forte. Sta attaccato. Io va preso. Adesso lo manda a Natalino, vediamo un po' cosa sceglie lui. Attaccato. Natalino, scegli il colore, io, col cuore. E tu Peter dopo glielo compri. E se avessi. Adesso vedi, adesso. Ma di treni arrivano insieme. Ma che c'è, ci sono? Vabbè, andiamo a prendere a morsi, quelli sì. Adesso glielo dico se posso mettere in cose il mio, in esposizione. Decorato. Cazzo, Bari Romeo, Bari. Come io sono tre pochi impari. Come siamo ben più risati. No, tutto inventano. Pur di fare soldi inventano tutto. La gente ci fa. Sì, come andare? Non so, ma quello che cavolo sia, tu. Sì, Corso Margherita. Corso Margherita di Savoia, aspetta. Corso Margherita di Savoia. Illuminatemi dove vicino. Corso Margherita di Savoia 121. Rodi. Dopo di me è andato vicino a via 4 novembre, no? No, dove c'è Corte Santa Maria, lì dietro. Ah, è vero, cazzo ci sono di mezzo. Aspetta, ti lo fossi saltata a mamma, aspetta. Vicino alla vecchia questura, C'è già stato un locale a Roma che si chiama La Parolaccia, che quando entri ti dicono parolaccia è tutta andare. Se sei di quelli parmalugi non ti conviene entrare perché la tua ragazza la fa una beffa. No, vabbè, chi c'è la parolaccia? 2000, ce n'era uno, l'ho visto su internet, l'ho preso 2000, ui, ne avevi tutti i colori, era lui come trupe varo. Ma non si deve entrare. Ah, cosa rispondere? Devi stare allo scherzo, perché se ti vedono che te la prendi ti infatti ancora di più a beffa. No, non te la devi prendere, se rispondi non è che sta molesta. E allora, devi essere umoristico, se non sei umoristico che se ti si ferma la luce è meglio che non entri. Io non lo so, sì, a un certo punto sì, sono umoristico, ma poi magari mi dà fastidio. Non è locale, e tu ci saresti andato con la tua donna e fargli dire queste cose? Io sì, l'avrei fatto, lei. Ma vabbè. Tra il dire e fare ci passa il mare, a tu. Avanti Margherita, tu cosa ne pensi? Ciao con te. Presenta, fai curriculum con fotografie e tu te li presenti. poi già ti chiamano, poi ci sono queste agenzie interinali, tu vai all'agenzia interinale e loro se c'è un lavoro te lo danno anche subito. Il curriculum mi sa che si fa da internet, si scarica, Minucca lo sa perché l'ha fatto da poco. Lo so. Di queste agenzie interinali controlla su internet, agenzie interinali, oppure cerco lavoro, vai su cerco lavoro e vedi, magari ti proponi cerco lavoro come metti la tua specializzazione e magari ti chiama qualcuno, capito? Anche se a fare lo stesso lavoro che ti pagano a tu non va bene. Io guarda, la fortuna che ho avuto, tutti i lavori che ho fatto mi hanno sempre pagato, sempre. L'ultima volta che la mia ditta ha dato in mano il personale a questa agenzia ci ha fregato la liquidazione, però una parte solo, perché quando sono stato con la mia ditta mi ha pagato la liquidazione, poi l'altra ditta non ha pagato, mi deve dare più di 16.000 euro, non ti riguardo, sono incazzato meno. E quello è quello che la gente pretende e non paga, infatti è quello, vuole e ha pretese però non paga. Guarda, ci sono anche ci sono queste cerco lavoro, l'ho visto su internet io e ogni tanto ci vado a vedere perché per mio figlio, anche io sto cercando qualche cosa per mio figlio, la verità. Quindi sto andando, adesso gli sto facendo fare ha fatto il curriculum, deve mettere le foto, tutto quanto, e poi mi presenta, capito? Presenta il curriculum. Perché anche lui vuole trovare qualche lavoretto. E allora, chiedi a Luca che te lo imposta lui, te lo scrive lui cosa devi scrivere, che lui l'ha fatto da poco, perché io quando l'ho fatto io il curriculum era tutto diverso, adesso c'è quello europeo, capito? Quindi è tutto diverso completamente. Luca se l'ha fatto fare da poco il curriculum, chiedi come ha fatto e che cosa ci devi scrivere, e lui te lo dice, capito? E adesso carta a carta, tu, non ce n'è più buona parola, adesso carta a carta, se c'hai gli incontri ancora meglio, però il curriculum lo richiedono tutti, anche da noi in ditta chiedono il curriculum, se non hai curriculum non ti pigliano. Ti prendono a tempo così, capito? Ti prendono a tempo, se non l'hai mai fatto magari qualcuno lo cerca o da insegnare il lavoro, però ti prendono a tempo, dopo finito quel periodo, se non ti rinnovano il contratto ti mandano via, capito? La McDonald's, poi stavano cercando anche da, come non mi ricordo, da cosa, da Media World mi pare. Se tu guardi cerco lavoro, tu metti cerco lavoro ed è praticamente dove danno lavoro, c'era uno che stava cercando lavoro e questo ha scritto aiutiamolo, cerchiamo qualcuno che gli possa dare lavoro a questa persona eccetera eccetera che ha bisogno, se tu lo metti scrivi che ha bisogno di lavorare, che c'è un bambino piccolo e cosa, se c'è qualcuno che ti può dare lavoro perché sei disperato, scrivi così, vedrai che c'è bisogno. Tutto si può risolvere, non è che ci sono dei periodi di buio e poi ci sono quelli di luce, ogni tanto quelli di buio vengono, affiorano e poi scompaiono, dai. Già, dopo il temporale viene anche il sole, devi solo darti da fare, cercare di fare un po' queste cose che ti ho detto, anche di metterti su internet, che lì tutti quanti guardano e se c'è bisogno di qualcuno te lo dico guarda che io sto cercando una persona, se ti va bene, ecco, tu pigli, andi, va, vedi e gli dici, fatti chiaro amicizia, lui, io lavoro, però io a fine mese voglio i soldi perché ho famiglia, così tu lì. comunque già ce ne sono di lavori, perché ogni tanto vedo che le sistemano uno, quello che cerco lavoro, ogni tanto le sistemano uno. Adesso da poco c'era questo qui che stava cercando lavoro, che era disperato, lo stesso, senza lavoro, eccetera. E il moderatore ha scritto, dai, se c'è qualcuno, cerchiamo di aiutare questa persona che ha bisogno, se c'è qualcuno che gli può dare lavoro, ben venga, ce lo faccia sapere, eccetera, eccetera. Ecco. Fatela dove aggiustare quel tuo amico. E allora non è quello. Allora Puripina sempre, altro non sai che usci. Aiui. Avanti Manuele. Ma Manuele ce n'è andato. Luca ci sei. Luca lo stesso deve aver chiuso. Mi sa che anche io chiudo, vado a portare il cane mio. Capito Antu? Guarda se cerco lavoro. E poi te lo metti anche sull'occasione, su subito.it, tutte queste cose che stai cercando lavoro. Scrivi quello che vuoi, scrivi cerco lavoro, qualsiasi tipo di lavoro, eccetera, eccetera. Così almeno uno lato lo trovo. Vai al CAF e chiedi se ti aiutano e te lo fai fare. Ci vuole la fotografia, li devi portare. Niente, se hai qualche cosa di dove lavorato, qualche referenza che ti fa quello che non ti ha pagato, almeno quello te la dovrebbe fare, una referenza di lavoro, nel senso che dice che tu sei un grande lavoratore, eccetera, eccetera, capito? È certo. Che tipo di lavoro è fatto, capito? Si informano, capito? Se per dire hanno dei dubbi su di te, telefonano dove lavorate e chiedono ma com'era questo ragazzo, lavorava? E lui dice sì, ha sempre lavorato, eccetera. Ecco, va bene, allora lo prendiamo. Mica se te ne dico una non ci credi. Allora, questo ragazzo che lavorava da noi, che consegnava le spese, praticamente si è bisticciato col principale, gli ha sbattuto le chiavi e ha detto signor lui, sono finiti i tempi degli schiavi, arrivederci e grazie, se n'è andato. È entrato a lavorare alle poste, è riuscito a entrare alle poste a lavorare, a timbrare le lettere, l'ha fatto entrare il padre. Dalle poste hanno chiamato dove lavorava e gli ha dato un brutto referenza, lo sai che dalle poste non l'hanno più preso. Gli hanno praticamente annullato la prova, cioè l'avevano preso un periodo di prova di 3 mesi, mi pare, dopo 3 mesi l'hanno mandato via. Oh, se non mi rispondo che sto facendo un po' di pasta. Ciao anche a te Luca, dai, adesso ci porto il cane, dai, che si sta già lamentando. Ti è piaciuta la buesa? Ehi, bella, va bene, dai, già, che mi sta preparando la cena? Che sono loco, io ci voglio rifare, ma chi te mi sta salutando? Saluta Margherita Gianni. Ciao, sto dicendo. Ciao Margot, un bacione. Margot ti ha chiamato, Margherita. Margot ti ha chiamato. Lei, ciao già. Ciao. E a me non mi salutate. Saluta che come è Natalino, Margherita. Cosa? Saluta Natalino anche. Ciao Natalino, buona serata. Ciao, buon proseguo. Vabbè, io sono quello che ha la voce più calda della frequenza, merito un saluto più caldo, vai. Ciao. Yeah, nessuno. Ciao Tino, buonasera. Oh, va bene, va. Aspettando. Come va? Ora ti faccio una prova, sto usando un mic adesso un palmare questo, ti attacco un altro mic. Dai. Ah, è Gino Muccolo, ciao Calvino. Ciao Luca, buonasera. Facciamo di cuore per stasera. Guarda com'è questo. Bello, bello, bello Tino, bello Tino. Diciamo che cosa da tavolo? Sì, è un amplificato, ma non lo so se sta spingendo o meno. Luca, lo copri a Tino? Ehi, a voi, ciao Tino. Non so se mi sembra ascoltato io a me, Io non sono a Cagliari, mi. Già ti ascolto, Luca. Insomma, ti ho salutato, non mi ha risposto, pensavo non mi sentivi. Sì, va bene, questa raga, non è forte, ma va bene, dai. Diciamo, una telefonata, là. Vabbè, non è l'altra, non è il Kimball. No, a parte che ti ho salutato e ti ho detto ciao tu, forse non hai sentito tu. Solito l'ho sentito, là. Sì, va bene, va bene. Poi c'erano questi stranieri quasi a fondo scala, cioè siamo messi a canale 11, 1 al 6, ma fortimi, stavamo qua nel locale. Sì, li avevo sentiti, stavano anche disturbando perché sembravano quasi nel canale vostro. Mi stavo ascoltando, poco fa, ma proprio sono andato dal PC e non sono entrato. Bene, bene, bene. Va bene, ma e quindi l'amplificatore non ce l'è qua? Un po' c'è, ma non è che c'è questa amplificazione, ma va bene, è bella, va bene. Andave. Aspetta, mi è arrivato un messaggio. Ehi, mi è arrivato un messaggio. Io, chi era? Mi stai copiando male? No. E chi erano questi tipi? Cos'è, americani? All'11, scusate, sì, americani. Positivo. Quindi deve essere già la propagazione in favore loro, e stavano smatterando, intanto sono delicati quando attaccano quella roba. Se c'erano bombe potenti anche nel radio, ma potenti, proprio fastidiosi. E allora loro hanno gli stufoni, intanto la corrente non la pagano, quindi non c'è problema. Come la corrente non la pagano? Ehi, dai, lui non è come qua. Bene. Vediamo. Posso aumentare? Vai. Guarda un attimino, allora qua siamo. Aumentiamo 10. Se è troppo dimmi, abbasso. Vai. Ricordiamoci che siamo con quello esterno, altri 10, vediamo un pochino, 2, 3, 4, 5, 6, prova di modulazione. Luca, poi ti sta arrivando adesso, Tino, vai, ti fai un passaggio lungo. Oh, scusate, che devo fare la puntura a mamma, arrivo. Dai, guarda un pochino, capi, si è aumentato la modulazione, parlando sempre normale e con il braccio steso, Alzare un pochino. Sì, va bene. Ecco, Gabi, guarda un po' se ha cambiato qua la amplificazione, se vuoi posso aumentarla o diminuirla, Io l'avrei lasciata così, sì. Dai, poi sentiamo anche il parere di Luca, magari a lui disturba o meno, non lo so. Io l'avrei lasciata così, ma alla grande, perché è bella corposa. Sì, allora va bene. Lascia alzare. Se la faccio sbagliare, che c'è mio figlio sopra, quello sta regnando. Oh. E a me il mio mi sta facendo dannare, guarda. Ho già saltato 3 volte la rete. Un problema, mi sta diventando un problema. Allora, non tocchiamo questo tasto, cazzo, che allora 2 settimane fa l'ho preso a tutta la recensione in casa. Questo perché sicuramente c'era qualche femminuccia in calore, lui vedi bello tosto, massiccio, tutto che c'è di voi, però ha un'agilità che sembra una pantera quando si mette a correre e a saltare. Purtroppo la rete via non è altissima, quindi la classica rete che usavano un tempo i pastori, no? Quella a maglie larghe, quindi quando sarà alta 1,20 m, non so, tira un salto e dentro. La maglia retrosaldata, tu già ce l'hai presente, la conosci a memoria, è 3 m x 2, no? Messa in altezza 3 metri, no, messa in altezza 3, gli ho fatto tutto il recinto nuovo. Ho speso più di 400 euro in maglia retrosaldata, gliel'ho fatta, invece di mettergliela in altezza 2 metri gliel'ho messa a 3, mi segui? E però non ce l'ho fatta a prendere, a fargli, diciamo, la spiovella, diciamo, l'inclinazione all'indentro, non l'ho messa dritta. Oh, la brincata, la saldata, sì, io ho detto dopo questa cosa sono rimasto scioccato, ho preso e me ne sono lanciato dentro, perché è impossibile. Sì, sì, ci credo, solo che io ho visto anche il mio portatesto salire, salire a rete come le scale, non ci credevo neanche io, cioè tu immaginate arrampicandosi, con quelli davanti camminava, con quelli dietro si spingeva. Bravo, non è che la salta, proprio si arrampica, proprio l'abbiamo cazzato io e Emanuela arrampicandosi alla rete, proprio sembrava un cristiano, neanche un cristiano si appende così, ha pigliato, ha pedato, ha brincato lo coso e è giunta a farsi a carità. Siamo più di forse 3-4 mesi cercando di capire dove uscivano i cani di Walter. E allora cosa ho fatto? Io con mio figlio siamo andati, gli ho alzato tutta la rete, gliel'ho messa a posto, gli ho tappato i buchi, tutto quello che c'è da fare. E in alcuni punti, diciamo la verità, che non era altissima, però era 1,60 avanti, ho detto vabbè, salta 1,60, non le posso fare nulla, no, vuol dire che devo fare una cosa ancora più alta. Levala della favola, in primis li trovavo sotto il tetto del coso, dove parcheggia la macchina lui, e saltavano un muro di circa 2 metri, 2 metri 10, 2 20, e sono giusto per così, una cosa del genere, e andavano a finire sopra il tetto dove parcheggiava la macchina. Un altro invece per saltare la rete prendeva la rincorsa, c'era una tavola che spingeva, una tavola da 12 cm di larghezza, una tavola che spingeva un pezzettino di rete, saliva sopra quella tavola come i gatti e tirava un salto ed era fuori dalla rete. Sì, sono assurdi. Ma poi considera che questo qua sì, non è un cane leggero che prende, capisco, un setter, mi aveva viraggio attaccato a regina, ma perché non c'è? Perché ce l'ho dentro con me, mi do mi sto tenendo dentro con me. Non è un cane leggero, può essere un setter, un cane del genere, pesa 52 kg pesa il tuo cane, a prendersi così, non puoi neanche prenderlo in braccio come vuoi, capito? Perché è un problema, cioè, no, adesso io domani prendo, come torno da lavoro, domani sera, devo prendere e fargli questa sera, adesso nel suocero mi ha detto, prova a fargli la spioventa lì dentro, gli lasci la porti magari a 2,20 m di altezza, cioè a 2,20 m gli fa la sciovenza lì dentro e li metti dalla barra filettata, dalla barra del tondino, del coso, da 12, da 14, vado a comprare giù un ferro e rivolto questa cosa per vedere se riusciamo a... Perché adesso un'idea, non sai cosa hai fatto tutti, sono bravi, però se viene qualcuno e poi io quando magari sto lavorando c'è la bambina che gioca fuori, i cani loro devono essere chiusi, perché finché ci sono io è un conto, però quando non ci sono io loro devono stare al posto suo, mi segui cosa ti voglio dire? Massima attenzione per queste cose qua, poi se viene qualcuno, non lo so, anche qua a volte vengono le colleghe, le collega della mia compagna, vengono amici miei, cioè vengono persone che conosco per vedere attrezzatura, non vorrei che facciano qualche stupidaggine, capito? Poi non voglio che vadano nella strada. Lo so, è un problema. Sto giocando col pallone, quindi è un casino questi cani. Tu pensa che questo qua ha raggiunto già i 55 kg, quindi voglio dire, non è che non ce la fai a prenderlo in braccio, però buttarlo dall'altra parte della recinzione è pesante. Sì, è impegnativo, da farcela ce la fai, però è impegnativo, rischi di farti male, fare strappi, fare... finché trovate a casa è un conto, però adesso se deve intervenire tua moglie, come fa con un cane così pesante a intervenire? E così se ne parla anche per mia moglie, non la cosa non è differente. Adesso mi stai spiegando, prende un pallone suo, è un pallone che poveraccio, noi vorrei a quella solo col pallone. Mi sta spingendo per giocare, ma in casa non lo posso fare giocare. Vai fuori, vai Aldo, dai. Mi sta tirando il pallone sopra, perché non ho fatto calcolato. Da Bagantu Sobetti sono mari, capita, cioè mari morilli che ti fanno stanno dannare a volte. Se oggi ha preso, voleva, è venuto, era un dice spogliatore, è venuto da dietro, aveva sconfinato a modo tuo e mi ha spinto. E tu che fuori di capo? No, a me è la sera quando rientro, no, allora si prende il pallone, si mette dietro di me e mi spinge col pallone per far sì che glielo tiro, capito? È così. Capì, ti volevo dire un'altra cosa. Vediamo un attimino, ci ha cambiato, 1, 2, 3, prova di modulazione. Guarda un po', capì, 1, 2, 3, prova di modulazione, ha cambiato qualcosa. Guarda adesso, 1, 2, 3, prova, ma allora vuol dire che non è quello, 50 era il suo. Eccolo qua, questo è il 50. Positivo, lascia tutto così.